10. Quando canale 10? Beh, Giuseppe, ristabilito. Adesso sono in macchina, tu. Stai arrivando a fondo scala, dove sei? Sono qua a Piazza del Tri. A bomba, 9.30, con chi sei? Sono rientrato a casa, ero... Radico, mio fratello, e c'era un'altra persona, abbiamo voluto una cosa e siamo andati. Un doppio room? Negativo, Antonello. Ah, capare. Gianni, non si è sentito? No, non l'ho sentito. Ma a casa come si è messo? Hai ristabilito i contatti? Sì, adesso a me, stasera... eravamo a mettere a posto quella cosa della cena e c'era il pezzo della bobina saldata, capito? L'abbiamo tutta smontata, pulita bene, l'abbiamo saldata e adesso la provo dopo, là, più tardi, come arrivo. Allora ci sentiamo dopo che vado a fare carica batterie e ci sentiamo appena rientri nel QTH. Una ventina di minuti e sono di nuovo in radio, dai. Va bene, non c'è problema. Via, ciao. Ciao, buona carica. Attenzione canale 10, chi c'è? Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, chi c'è a ruota? Lascio questo qua per adesso, dai. Ah, trovato cambia la cosa, tu non la studia con quello lato, io lo sai. Ora avevo 5 batte, adesso avevo 15-20, eh. Molto bene, mi vorrei dire. No, tu hai fatto tutto questo profilo là, il coso, non andava bene così come l'avete fatto voi, la dritta. Ma si fa il PL, si taglia la gomma di sopra, la carta si tira indietro e poi per lontano si può uscire fuori, dopodiché tagli quello che serve e buonato ci metti dentro e quello caldo. Hai capito? Invece c'è la gomma assieme e quindi tirando è andato in corto. Ma è possibile, Pompo? Ma sei sicuro che sono i miei quelle? Io ho visto così e quell'altro ci sono i tuoi, la verità. Io sto dicendo quello che ho fatto, l'ho fatto vedere anche Giuseppe, forse sono pieno di tuoi fatti da te, non lo so la verità. Io non posso comprare nessuno perché io ho fatto i miei e li ho fatti come si deve stasera. Poi gli altri non mi interessa niente, capito? Ognuno fa quello che vuole. La verità non li ho visti come li hai fatti tu. Che era quella maniera lì, perché mi erano perfetti, cioè quelli che ho fatto io, non è possibile. Quanto ce n'era di campo? Di positivo usciva fuori, quanti posso dire, 50 mm di positivo, da piede naturalmente, poi all'interno l'ho smontato, c'era la gomma, il positivo quasi assieme erano collegati, capito? La carta ti aveva appena perduto, ma non c'era neanche un millimetro di differenza, ma più o meno. È entrato così, capito? No, non è roba mia quella. Non è roba che ho fatto io quella. Perché i miei sono perfetti, sono. Cioè, non è così. Io quando lo vedo, quelli che ho fatto io, quando li vedo te lo dico subito, questa è roba mia, è roba che ho fatto io o roba che ha fatto lui. Ma scusa, ma che capo ci hai messo? Ma ci hai messo il capo tuo o ci hai messo? Cioè quello che hai fatto tu o quello che ho fatto io? Quello che mi hai dato tu a tu ci ho messo. Non è possibile, non è assolutamente possibile, perché io li ho guardati bene, che non era unito da nessuna parte. Già, yeah, vabbè, comunque tu apri 5 euro, va bene lo stesso. Adesso l'importanza è che lavoro l'abbiamo fatto, tranquilli, stiamo modulando, non andiamo a criticare nessuno, dai. L'importanza è che sto uscendo bene e almeno ci possiamo sentire benissimo, hai capito tu? Scappa, no, ma io era solo uno che ti avevo detto che no, non sto criticando nessuno, era solo uno che non entrava molto bene, te l'avevo detto, perché era appena, però non c'era nessun contatto, perché la casa era dalla parte in su, era bloccata, era, e là il filo centrale era bloccato da una parte, così che non poteva dare in ordine, non poteva dare problemi. Oh, che strano, vabbè dai. Oh, ma è venuta. No, non è quello il problema, non è quello lì il problema, non è quello, però l'importante è che adesso siamo ritornati i vecchi CB che riesco a modulare, bene, hai capito, grazie a Antonello che mi ha fatto la cortesia di venire a casa e fare questo lavoro qua. Poi, per il resto, l'importante è che adesso ci sentiamo tutti quanti, capito? Gaffa, dai. Non è un problema. Vabbè. Ok, avanti Antonio. Sì, ok, non c'è problema per quello, lui ci mancherebbe. Aspetta, non mi devo dire fatto. Ok, sono 50, va bene. Giuseppe, scendo bene, se avessi avuto il barato veloce in macchina sarei riuscito ancora meglio, la verità. Però va bene questo, batte avanti, già perfetto, i segnali che li radio. Ah, già va, già, Antonio, già va bene. bene anche questo, là per adesso lo facciamo girare, capito? Tanto che questo qua era sempre fermo, adesso lo sto facendo girare, poi domani dopodomani o domani dopo metto quello di macchina, smonto tutto quanto dalla macchina e ne metto quello lì, capito Antonè? Già basta anche quello, era americano, perché quanto i batti ci aveva, me ha messo nel manco. Sto già 1-0, hai capito tanto? No! Marotelli! 3-1! Paura! Mario Marotelli! Fatti questo! Non ci ha pensato male il pesce, era ora. Bello questo gol, l'ha fatto di gran classe. Ok. Oh, continuate, dai, sono contento Leoncini, finalmente ce l'abbiamo fatta, dai. Ma non c'è problema, Anto, va bene così, già va bene così. E adesso, poi, in seguito, vedremo un po', capito? Già lo so Antonello. Sì, ok, non c'è problema. Bianco, se ti siete ritratto fra un po'. Ciappa. Scusa, ma sto vedendo il vino lì, perché ha segnato Balzoglio, te lo immagini, Antonio, tu è l'onfio. Ah, c'è un vino alla schinciola, non mollano. Come te? Ho trovato molla per il segnato Balottiglio, ho detto, come l'onfio. Boia. Non lo lascio per essere morto una cosa. Miglia funziona. Spera, non uccimi. Ok. Ciucu ciu e ciucu cia. Cicchi cia e cia e cia. Ciucu ciucu. Cicchi cicchi cicchi cia. Adesso c'è il QRM, no? Ma prima, dopo per avere il QRM, tu? Lo so, in culo ce l'avevo il QRM. Adesso tu devi sopportare il QRM, caro mio. Non c'è più niente da fare ormai. Specialmente in inverno, a me. Si comincia a sentire gli americani, che fanno un sacco di casino. Zappa. Adesso cambia la cosa, tutta la cosa adesso. Tutto l'altro mondo. Una per una piccola, per una 50 anni. Ti si apre un coso, una ruba ti si apre. Sei cappa. Mi vuoi avanti, avanti. Beh ragazzi, come va, come va? Poi, Don Mellino, buonasera. Don Gianni, buonasera. Ehi Giuseppe, mi sentite là? Allora, solitari siete? Beh, stavamo provando l'antenna, stava uscendo bene, adesso stasera abbiamo tutta quanta ripristinata, tutta messa a posto, tutta nuova, hai capito? Dunque, stavamo provando. E adesso si adesso si fondo scala, Giuseppe. Allora, quando andava l'antenna è così, 9.20 era troppo poco per essere troppo vicino. Beh, cazzo già, lo sai, no? Che poi era disaldata il coso della carica, hai capito già? Abbiamo preso, smontata tutto quanto, spiegata bene tutto quanto il coso con l'arancione, c'era un pezzettino, c'era disaldata. Abbiamo messo le viti nuove, tutto quanto, i radiali tutti quelli puliti, è piazzata e adesso vedi come è il risultato. Adesso è di lusso Giuseppe. Anche la radio è bella forte come sempre. Sto usando quello Washington della preside. Ma che microfono? Ho quello là, con l'MP5. Esce bene, esce bene. Di lusso. Beh. Avanti, moto pompa. Sento voi il segnale, la dritta sinistra, quindi. Sono qua, dopo i 20 c'è il segnale, precisi, non cambia nulla. Pensa a Zoma. Sì, esatto, infatti. Tanto il l'unico pipotto tipo 2 è Walter. Ma Walter già sai che non usa 5 watt, Walter ne usa 1000, quindi la cosa è differente. Beh, vabbè, se esci con normale è così. Quando ti arriviamo? Uguali siete, non cambia nulla, siete uguali. Per il segnale. Uguali, 9:20, precisi, uguali. Vabbè. E dopo? Vabbè, se tu ti senti, poi siete anche vicino a me, siete 100 metri da un lato di segnalare, quindi, più o meno. Infatti, così, è così, Ale. Siamo vicini. Vicini lontani. Guarda, è un'antenna, guarda, c'è un'antenna, ma potrebbe essere mai quello di Giuseppe. Tutto contrario, non c'è mai una cosa che sia andata bene, da quando la sarebbe stata la stazione qua. Sembra che fa un break, fra poco, guarda, ti giuro, c'è un po' San Donato. La porta San Giuseppe e la faccio mettere a posto. Ma quella terra non era nuova. È nuova la verità, perché non ce n'è. Era. C'era andata a caricare caratamente tirata in su, salvata, che al primo colpo si è risaldata, capito? Si è fatta male. Infatti la carica è stata tirata a morte, che quando ha fatto la salvatura l'hanno fatta così, hai capito? Era accorta, e ha degenerato un pezzettino per non stare in tiro. Non puoi farlo una cosa del genere, perché quando scade una cosa si risalda l'altra, già lo sai più di me. Quindi ho voluto fare una bella goccia grossa, per salvarla subito. Infatti mi sono... si è fatto la mano Giuseppe un pochettino, mi ha detto, ne esiste 2 minuti, ho detto, e abbiamo quasi finito, ho detto. Ma se sono andata come la a posto, Non è che non secondo di te, passo volendo su. Via. Va bene, adesso esce, come si deve. Poi dopo quello, siamo scesi giù, e ho detto, Giuseppe, adesso compriamo l'antenna. Anche con te sta pigliando, si sta pigliando rubato. Ah, tanto non può essere, no. Siamo subito sotto l'altro Giuseppe, ci stiamo dando il palo. Va bene, almeno proviamo così. Adesso voglio fare una cosa, Antonè, voglio scendere giù, prendere l'altro barchino e metterglielo e vedere, e ne distacco l'antenna e tutto e vediamo un po' come esco. Se ne una, scendi giù, stacca il barattino, dopo più su lo agganci e vedrai che esci molto meglio e non fischiare a me il microfono. Entra. Che c'è? Ma sono andato, serve il segnale, come ti arrivo? La base è attaccato. Come è stato il voto dell'apparecchio basso? Sì, sicuro. No, vabbè, solo già lo sai, ho bevuto tutto un altro, Giuseppe siete uguali a me. A te lo qui, aumenta il batterio dell'apparecchio. Spaghetto. Giuseppe. Immagino che sia staccare il macchino grande. Meglio che sono portato a casa che lasciavo giù, se non mi trova due. Quale grande? Tutto. Ma perché si è accorto la macchina, ho capito, anche se ne lasciava un occhio, lo lasciava. Almeno uno si sentiva, prima ci sentivamo per radio, cosa, dove sei, dove non sei, invece adesso se l'ha davanti. Non hai capito, no? La macchina l'ha messa in macchina tutto il giorno oggi. L'ha lasciato giù. Hai capito? Mica poi ci ha fatto giù la notte, no, iniziava a farla vedere la macchina. Quindi meglio che sono portati a casa sua, dopodiché noi la tira, mi devo attaccare il nuovo in macchina, no? Ma lasciarlo lì non fa. Poi già lo sa, già le ha appena furato. E appunto per quello, adesso ci di voi sta attaccando, così se fate in casa, al limite si comprerà un barattino omologato per la macchina e basta. Ah, di quelli piccolini, va molto bene, e anche ho sentito che c'è un bel bene con quel baracchinetto piccolino. Con quale? Con quello che venne fusato, quello della Lafayette piccolino, sembra una scatola di sigarette. Ah, però sembra di gente che sembra, quel tipo di apparecchi. C'è anche i migliori qui, che gente, quello vecchio. Infatti. C'era l'Intec, cos'era, 3,40, quello ci fa un bel bene. Io ne ho avuto un patto di quelli, 4,5 ne ho avuto di quei baracchi, non c'è neanche a vendere, non ne voleva nessuno, figurati. A me Stefano me ne aveva dato uno e andava molto bene, poi l'avevo dato a Luca. Gli avevo quanto? Cioè quando ce l'ha dato, perché... Quello che ho dato io modificato di quei 340M, quello che si dice più studio da Intec. C'era 34 operare normale e ha fatto sotto. Allora lui mi pare che ne aveva dato uno che aveva il camion che portava le macchine, non so che cosa, ne aveva dato 3 o 4, boh. Poi l'ho dato uno io perché con la bottaglia lo sai cosa è successo. Ho preso un colastaglio per gli altri, quindi con la bottaglia. Ci ho messo un baracchino del genere, allora infatti l'ho messo io perché ho fatto la grazia alla mente e gli ho dato il baracchino nuovo a quello, e l'altro invece si è pigliato il baracchino come se l'avesse capito un cazzo e ci ho rimesso io, da quella volta lì mai più. Oh yeah. Sì, che è fatto lì, sta lunga, va. E ho messo, ogni tanto, ma ora qualche porco si sente, già, comunque arriva più forte di te, chi? Un pugno, guarda di Vivaria. Non ho capito, avevo più forte di te, cioè di lui. Tu arrivi più forte di lui, di Gianni. Fate sicuro. Beh, non passava. Se sono liscio io. Cazzo, se c'erano che eri più forte tu. Anche io sono liscio. Ma sono veramente la verità. Io guardo la verità, sono con 50 metri della palla che batte. Non mi ha attaccato niente, non mi ha attaccato niente, è staccato, non sto neanche usando. Sì, già. Ma no, vabbè, comunque dice che mi passa, deve essere sta usando più watt di me, non lo so, in linea d'aria magari è più favorevole. Non fa le gare, se non già sai, attacco 2,21, ottengo di 3 qua. Non ci credi, aspetta. Vediamo un pochettino. Eccolo qua, aspetta un secondo, da come dentro uno, aspetta 10 minuti. Aspettiamo. Ah, mica c'era anche Leoncino. Leoncino Drummidus. Leon. Non è che ti sei bruciato il bruciolato. Dai, popolaccio, glielo do bene, aspetta. In realtà io mi sono attaccato l'antenna adesso. E che fine ha fatto? Mi lascio entrare, c'è attaccare il baracchino. Cioè, ma te abbiamo fregato il baracchino stanotte anche. Ci ha battuto il palo dell'antenna. Adesso l'antenna è fuori del tetto, così? Sì, meno male, sì, era ora. E lì alla fine come l'avete sistemata? Gli avete messo staffa proprio nella mantovana lì. Sì, ma quello sotto si stacca, ma non capito perché. C'è un problema di lì. Questo latenso va più correttato insomma. Non c'è niente da fare. Non regge. No. Mi ha fatto un buco lì. Io ho già detto a Giuseppe, cemento rapido e aspettare un po' di tempo, una settimana quello che è. Ma con il tessero chimico gli ha messo? Sì, ma non fa, non c'è niente da fare, non fa, con quelle classi con fatta che non fa. La potante, chiaro. Ah? Mi hanno messo la potante. E la ura. Attenzione, città di Sassari con la buonasera alla grande città del Carraggio. Milumi, beh, adesso, ben sentito. Ciao, che Pomponio. Ciao. Ciao, come va? Buonasera. Che pompende. Di che paio sei il vero, Cla? Buonasera. Allora, aspetta un attimino, che qua devo... Prova. Devo regolare un attimino, scusate un attimino. Qua non si scende il radio, per forza c'è qua il microfono. No, qua non va bene, no. Non ci sei. Adesso non ho alternato. Ma stai facendo lo... Fanello. Avanti, Giuseppe. Guarda, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo va bene, sì, va bene. Ci andrà bene meglio adesso. C'è chiaro che cosa stava provando. Prima domanda non sapevo sapere come se è successo all'antenna sua o l'apparecchio blu. Come ha reso il segnale, Antonio? Ha giudito, vai, capo di pugnetta. Buonasera. Adesso stai uscendo. Prova, Cla. Cos'è che c'hai? C'avevo il microfono chiuso. Buonasera a tutti, divertitevi. Capo di pugnetta. Che barbato, come si può offendere, puzzinoso. Invece Giuseppe, meno male, con la 58 oggi. Come stai arrivando a te, Giuseppe? Ho capito cosa hai detto. Sì, Giuseppe, che sta uscendo con la 58, come sta uscendo oggi? Da casa sua? Ah, boh, io so la direttiva, non so. Vieni avanti, Giuseppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, prova. E vedo, controlli. Ma io non sono nella zona tua, sono a nord-ovest. Santiago Lombe, sì, qua. Divertitevi, dai, solo per un saluto. Ciao. Cosa faccio? Chiudo il refrigerino. Perché chiudi il refrigerino? C'è l'antenna sopra di te, lasciala aperta, così lo facciamo funzionare quel baracchino. No, perché c'è uno switch che sta impazzendo. C'è l'antenna sopra. C'è l'antenna sopra, no, dove? Ma fai che se ne varia! 10 metri è girata lì, dai, non lo voglio ritornare a farla girare adesso. Divertitevi! Hai visto anche con l'antenna così si esce. È bello più rutte, vivo sì. Vivi siamo! Siamo! Cos'è qua? Signore, Sandro Tigre, buonasera. Buonasera anche a lei. Ma sei molto basso di radio, eh? Il segnale è accettabile, ma la radio è bassa, controlla. Cambia la batteria, Giuseppe, cambia la batteria. Batteria? Giuseppe usa batteria e Duracell. Compa le Duracell. E mai come ascolti, Sandro? Ora, ma sta bene va. No, non mi piace, sei saturo. Aumenta, vai. Non sono saturo. Io sei saturo, Popo, almeno tu, dimmi come sto andando con questo apparato. Quasi 26, radio 5. Cosa che sono stato? Dimmi No, boh, sì, tutto molto strano, tutto... Spacca, spacca un attimino, spacca e sistema il microfono. Mi piace anche lui. Sì, avanti Luke, come lo sento Claudio? Prego. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ha cambiato batteria, eh. Questo va meglio. Sandro, ci sei? Certo, sono quasi, di 9, 19 sei adesso. Come? Sei 9, 19 liscio. Si scappa. Oh, Giuseppe. Da parte mia non ha cambiato niente, adesso non so se sia l'apparato in ricezione oppure che cosa, perché io ho ascoltato con la popolazione molto meglio. Vabbè, già va bene così, dai. Comunque, io ti ascolto qua, tu mi stai arrivando 9-10 amici positivi, Radio Super 5. Ok, dai. Era giusto qualche passaggio, giusto per far riscaldare un po'. Un po' qua l'attrezzatura ogni tanto, va bene, dai. Signori, continuatevela pure, buon tutto, alle prossime, dai. Ciao Sa, ci sentiamo, buonanotte. Avanti lì. Qua sogno, qua sogno, non c'è problema. Ma voi bene mi ascoltate? Allora, qui c'è un 31, sono 100, 120, appena acceso. Allora, radio Gianni, buona. No, sto facendo a caso perché era a basso dei bisi di radio e usciva un po' strappato, boh, come se fosse stato. Anche adesso? No, adesso è chiaro. Vabbè, c'avevo l'antenna, mi stavo prendendo di fianco, il segnale non era molto, molto stabile. Adesso invece l'ho addrizzata per un pezzo. Come c'è chi va? Come è stato? Come c'è chi va? Cosa che c'ho? Che sconto che ha trovato stato con l'apparecchio mio. Stacca, stacca, ti stacchi. Cosa? Luce non più ti stacchi. Barrato, 9,86. Ecco quel che si è addossato. Non si può neanche capirti. Boh, Gianni, tu stato mi sì. No, un po' compresso, non saturo, no. Appena appena compresso, ma è comprensibilissimo. Non cra. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao, tanto hai ragione, per forza sono 9,80 da te. Non me ne ero accorto, ero in 10 metri. Se io pago. Così meglio va per te. Allora, sì, ok. Scendo mai. Cosa? Tutto mi hai. Antonio sì. Eia. Ehi, già ti ho riconosciuto adesso, come fanno? Va bene, dai. Continuate, ve la saluto a Sandro e a tutti. Ho detto vivo sì, Gianni. Da sono vivo sì, e tu vivo sì. Sempre, sempre, sempre qua sogno io. Adesso mi stavo spegnendo tutto, sono stanco morto, sono trasferrati. Vado a vedermi un po' di TV, dai, già entro ogni tanto a salutarvi. Statevi bene, un abbraccio a tutti, divertitevela. Molto po', ricordi quello che ti ho detto, Capito? Se non arriva un'altra settimana, chiudiamo la quella radio perché l'ho già venduta e non voglio avere rotture i coglioni, Ho vendute tutte, anche Ruiz, tutte. Mi ha Giampaolo Silvestro regalato il Seas SSB50, portando più due a tavolo. A me non mi regala mai un cazzo nessuno, guarda. Ma va, fanculo, cazzo, va. Posso solo però voglio un regalo, non voglio baracchini. Non mi bastano tre casse di birra. e due casse di bistecche, in modo che ce le mangiamo di qua a casa e li mettiamo a fuoco. Se non c'è il gas mettiamo fuoco alla casa e c'è l'immobilia. Vabbè, Giampaolo, sono più due levate, si è innamorato. Va bene, dai, statemi bene, divertitevi. Ricordatevi che c'è sempre un'ora 48 corte da prendere, capito? Avete, mi ho tenuto solo il presente mio e buco, il resto tutto fatto fuori, anche il DAC, tutto fuori dalle balle. Claudio, cosa vuoi, capo di Bugnieri? La massa te ne vai, eh? Non ti piace questa radio, no? Vero? Ah, stai dicendo, già ti sento, che sono con la direttiva, capito, e il segnale è un po' scarso. Ma comunque già ti sento. Santiago Rome, sì, la radio già è buona, 5. Vabbè. Sai, stasera, stamattina ho conosciuto a Gianni di Chiaramonti, cazzo, quello che guidava lo scolobus. Gianni di Chiaramonti guidava la scuola bus. Tanto Gianni non è di Chiaramonti ma è di Nulvi, e poi non è guida scuola bus. E vabbè, quello che guidava la scuola bus è quello là, hai capito? Ah, dice Gianni di Goggio, Gianni Capri 2. E Gianni Capri 2, sono confuso, là. Gianni Capri 2, mamma mia. Come l'ho sentito parlare, ho detto, boh, questo è Gianni, ho detto, Mattone, ma chi è questo? E Gianni, ho detto, molto piacere, chi è questo? Leoncino, la fai, sì. Due capi di Bugnetta. La massa per scena, è altro. Te lo do io, il tanto. Ah, doppio root, vado a fare. Adesso vai che hai coincido, l'uscita con i bloghi, cazzo. Due capi di Bugnetta. Bravo ragazzo, già ne capri due. Siamo dobbiamo fare i beni. Gappa. Ma non guida la scuola, adesso sta guidando il pullman suo. Porta i bambini a scuola, mio. Oh, Leonci. Gappa. Non so se li porta a scuola o li porta in spiaggia, blu. La mazza te ne paia. Antone, mica c'è la cadria. Ma che stava scoprendo ieri notte lì, tutto quello che ho detto io e tu. Ma te la fai. Vi manco, cazzo. E adesso terminiamo questo di eccessi che stiamo facendo e poi già ci facciamo sentire un po' spesso, dai. Antonio! Oh, qua! Pronti! Gambe e nocchi! Un capo di Bugnetta, dimmi già! Stasera c'è un bassato, l'incrociatore che porta a casa. Lui stava a Vittorio montando un dipolo sopra l'albero. Quello fa... Fra un po' anche gli uccelli se lo mangiano, cazzo. Perché è sempre appeso sopra gli alberi montando antenne, cazzo. Quello anche noi ce l'abbiamo, Luca Boibonietta radioamatore, cosa pensate? Ma quello c'ha anche la scala gratis, ma c'è l'autoscala, è vero, là, è parente a cosa? L'autoscala lì che va su. Prende francamente. Fa il culo. Ma come già invece è rincoglionito là? Ma sono figlio di Mastro Bettinato. Ora non pure Mastro Bettinato mi frequenta già. Ma è Mastro Bettinato? Chi dove cazzo la scala si va troppo in culo. Io se ne gioco la canzone, ma in frequenza non gioco la Va. Ce ne sono pochi io. Oh già. Lo so, c'era mio un periodo che avessi scelto con me, che ti ricordi bene di quelli. Lo so, veniva, ma c'era la direttiva e sapeva dove dovevano le portarti. A poco ti posso dire. Ma lì già, c'è un gioco che ha separato da Raccara, una dice. Ci sei arrivato già? Sì, 2 anni. Sei un santo, no, poco. Dai, fatemi salutare, sto chiudendo ragazzi, dai. Divertitevi, già entro ogni tanto a farvi visita, farvi fare 2 risate, lasciatemi finire questi collegamenti che stiamo facendo e poi già mi faccio sentire ogni tanto. Leoci, ma l'antenna hai messo? Sì, ma l'antenna in capo te le buoni a te. Cabo di biscitta. A te la tribù per un ragioniere, eh? Molto lo vuoi che ha lasciato lo treno. Ah, alcolizzato, qui ci siete. Qui sta solo un fratello. Ah, Giuse, ma l'alcolizzato siete, un buon Piere. L'ha mai compreso. Ma sei giocato qua che hai? Forse noi giocassi un regagone. Stasera bevendo china fermet, l'asinello. Va via, cazzo. Io sono convinto che quello beve anche la varichina, ci mangia la ghiaia, cazzo. Oh, la stamattina c'era Roberto che stava aspettando, lì c'è. Sapevo, a quello di presentare lì c'è a Godoy, a lavorare, in quanto circolo. Ma quello lo prendo per il culo, ogni volta lo telefono. Di andare a lavorare, mi viene in questo cantiere, le dicono, a voi il cantiere è serrato da un anno. Come l'ho fortunato Roberto, visto? Dice, si fa adesso di prima, se fosse di merda. Per carità, cazzo. Oh, via, via, non ho più rotto, riprendi, dai, io vi saluto e chiudo tutto. Che spengo tutto, davvero mi dice il tracco, tutta la gira un po' di nonca gioco, dai. Già, riprendi. Già ci sentiamo, ci aggiorniamo in verticale, dai. Fatevi vedere. Ciao a tutti, un abbraccio, a presto. Kappa, vai, ci sentiamo qua. Il Buri che è chiuso, lo sai? Perché? Stanno restaurando, siamo andati l'altra sera ed era chiuso. Tutto chiuso per restauro. Ciao, sono ben ancorata. Allora, dove ci fa a mangiare? E speriamo che riapra. Speriamo che riapra e già troviamo un luogo. Ma il Battianino c'è sempre, sì. Wow, raga. La verità è che non va bene. Che hanno carrato un gruppo, che hanno fallito dei proprietari. Troppi capi maniani. Giuse. Troppi capi maniani. E ha scritto tutto. Oh, c'era scritto nel biglietto, c'era scritto chiuso per restauro. C'era un biglietto da cui. Ma domani l'ha chiuso per corna. Oh, vabbè, vedremo com'è la situazione. Dai che chiudo, ciao Luca, buonasera anche a te, ben ascoltato, ci sentiamo le prossime ragazzi, statemi bene, ciao ciao. Ciao Cabolano, quando voi siamo qua. Kappa, già vi ascolto ogni tanto, ma sto terminando un DXC che devo fare dei country, vorrei fare 240 collegamenti, se non li finiscono non mi do pace, se no Marco mi lincia. Già passo ogni tanto a trovarvi, dai. Quanto mi ha fatto, c'è la ora? 170, ma no, non country, i country sono isole a 9.000, 10.000 chilometri, non sono dietro l'angolo, quindi sto sempre al computer guardando dove stanno trasmettendo e poi passo e schicchio, capito? Oh, là. Lui. E se ti faccio un DX io? dico sto parlando la cosa, la sozzo. Cosa mi danno a me? Un capo di bugnetta. Facciamo dire che parlo di sono cinque capo di turismo di Toscano. No, poi l'ho impegnato anche con col Cisimo, e c'è stato un campo scuola lì ad Alghero, quindi abbiamo fatto un po' di protezione civile, eccetera. Infatti mi hanno fatto la pergamena, mi ha dato la porta Giuseppe, dove appunto ci ringrazio per la collaborazione degli S0 di FB che l'avevo avanti, eccetera. No, ero un po' impegnato, è davvero, non è che vi ho abbandonato, è che questi country così lontani vanno fatti, perché altrimenti non ti danno più il diploma di XC a livello mondiale, e quindi mi sono buttato in mezzo e ci sto riuscendo, piano piano, però su questa convolta la rottura di balle. Vabbè, dai, un abbraccio a tutti. Sì, anche a Luca, capo di Bugnetta del Monte, ciao! Quello sul computer, altro capo di Bugnetta, eh? Sì, ci quasi! Sì, Puttinosi, non è proprio che lei, il suo computer è pieno, di tutto da di più. Ma poco veloce il suo computer. Ma perché ho scritto, cerca se il CB brasiliano, ma ho risposto in due. Di baracchino. Mi hanno fatto un numero attivo addirittura, a chiamarmi, a dire tu vai a caga, vai, me la porta con l'ex in Brasile. Ma sei buro? Ti giuro. Oia, ripenta la Gianni. Sì, c'è Leoncino anche, Leoncino. Io non gli tanto va, si fa solo il mio, poi andare, stai chiudendo qua, ti volevo chiedere solo che collegamento è fatto più lontano. Ehi, tutte le isole sono a 10.000 km, 11.000 km, sono isole dell'Oceano Indiano, Oceano Pacifico, Oceano di tutto, Africa, di tutto. Ma in direttiva resta facendo? Beh, direttiva è ampia, altrimenti manca la landrica e arrivo. Ma in quella frequenza già si fa, già si arriva più che in 27, no? Beh, poi guarda laterale, figurati. Andare. E in che frequenza state andando? In cose 10 metri. E in 10 metri, in 40 metri, in 20 metri, dai, un po' da tutte le parti già. Mi ha aumentato appena appena sto MC80, che era troppo basso. Lesci il tintino, riprendi. Senta. Tu sempre brasiliano, cerchi anche i CB, cerchi brasiliano. Ma no, e chi è la Sassari? Lo dico, perché forse si è appassionato. No, per niente, ne conosco tutte, polacco, brasiliano, ma brasiliano sono il piano Sassari, capito? Brasiliano e spagnolo. Con la scusa del professore di soggiorno per turismo vengo, è pieno, capito? E Giuseppe, spesso. Giuseppe? No, sono qua, sto ascoltando. Se non hai controllo adesso che sto contando. Non so il segnale, guarda un po'. 9.30. Stacco, aspetta. Staccato, adesso? 9.25, dai. Sì, poco. Tu sei stato però e... anni adesso. Ora, la Coca-Cola che vi fa bene e vi fa digerire. Adesso. Se più 9.20, sei 9.22, sei veramente stato però. È sempre quel difetto avuto che sta apparito. Lo so. è tutto per così, non per farci niente. Invece qua. Paola, sono comunque 51 quello che c'ho a casa. Paola. Allora. Sono 10 dati di protagio, si chiude e sono giusti. Guarda adesso se saturo. Prova un po'. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso di meno. E quando fa arriva nel segnale. Prova un po'. 1, 2, 3. Sono 22. Facciamo la prova con l'altro baracchino adesso, con la direttiva. Fa un passaggio staccato, sia tu sia Giuseppe. Prova. 1, 2, 3. Prova giusto Giuseppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova baracchino, prova baracchino. 1, 2, 3, 4. E c'è una bella differenza. 5 litri di guadagni sono di referenza. Contatta come adesso però naturalmente. Appaga. Ma non so chi hai messo. Io non è che il rotore che ho io. Mano. Ma non sei scemo, no. C'è molto della direttiva, cioè della direttiva, della parabola sto usando. Capito, va bene. Cazzo va bene, mi dico Giuseppe. Va bene, cazzo, è una bomba. Lei sembra un attimo il viso. Non ho pagato un cazzo quel motore, se tu dicendo, cioè, ho fatto meno a pigliare i 3 o 4 di qui, che si stavano buttando. Uno l'ho sottoluto io, l'ho trovato a Adriano. Ed è perfetto, una bomba quel motore. Va 24 volte, gira, fa nord, sud, est e ovest, basta, ho fatto. Ti va. E certo che basta. Una bomba, eh. Alla voglia, sopportate di parabole di 1,20 m. Quella c'è leggera. Il motore è bello grosso, ma perché questa quasi 3 kg e mezzo il motore. Comandi da dove ce li hai, da giù. E allora, mi sono sceso il cavo giù, e lo comando io come voglio. Ah? Appaga. Ma l'hai fatto tu il comando per dargli i giri? Via. Se lo segna il nord, sud, est, ovest. No, non mi interessa niente meno di quello, di segnarmi. Questa contro i cose del tweet. Ora faccio puntamento, non c'è bisogno di essere nord, sud, est e ovest. Però se il massimo segnale punto lì sarà bien cool. Quello sì. Faccio così. Poi facevo prima la torre, quando è indietro. Vabbè, è fuori, provatela. No, ancora non l'ho provato fuori, la uso solamente la ricezione, peccato, per fare malacchini. E non l'hai sfruttata allora, magari quando c'è un po' di propagazione, ti conviene provarla. E quando c'è propagazione la provo, adesso vediamo un po'. Che sì, funziona bene. E per fare la parte dovrei anche modificarla, perché di poco i radiali, cioè quei radiali della manta poi che ci ho messo di mettere le rampe direttamente e così apposta che? È attaccato proprio con quelli, non c'è nessuna carica, capito? No. Ma non li tuli dall'altra antenna? Assolutamente, c'è in più, c'è io, cosa c'entra? C'è due radiali qua, di rampe nuovi, gli abiti Giuseppe. Come mi mancano l'avanti qua 5, ce ne ho in pratica 3, nuovi, con quelli che li fate con quelli su, li stacco e li metto qua giù, da quelli che li pulisco bene e mi mancano di riserva. Poi te li puoi sempre fare quindi. Ah, non mi piace niente, già, tempo di riserva li mettevo così. Solo il regalo che serve, non so, quando c'era qualcuno non ha mandato qua 5, gli servono i radiali, glieli do, non me l'ha fatto nulla a me. C'è le vetrole e ci sono tutti quanti cristallizzati, lo sai? No, io sono tranquilli, quelli di casa poco pungo, altro cristallizzati sono. Ciao, ciao. Avanti Giuseppe. C'era Bombolino che ti ha salutato, stava chiudendo. Bomboli. Ciao a tutti, dai, io me ne vado a dormire. Ciao, ciao. Ciao, Anto, ci sentiamo. Ci sentiamo domani a rimettere, non c'è problema. Buonanotte, buon tutto. Metto a mangiare un bel cioccolatino. Mangia, sapete che mi devo valere. Patrulli chi un cornetto? Con il caldo o con il freddo? Giorgio, come tu mi do a voi? No, non c'è bisogno. Aspetta che ho la bocca piena. Allora per caso il cornicione. Stai mangiando il corno della nonna? Il cornicione sta leccando. Ai ai ai. Lascia il cornicione, lascia il cornicione. A dieta Giuseppe. Sì, domani, barrato, comunque ho mangiato già tanto, ma adesso ci mangia tu. Tutto il buffo. Io sono a dieta, ma lui no, il barrato, lo vegga. Che ha fatto il correttivo, ogni tanto fa capponino, eh. Avanti di nuovo Giorgio, doppio rum è sottoscritto. Sassari, zona Via Balbella. Santiago è di 3, Santiago 3, la radio è 2. Non so con cosa stia uscendo, l'ho perso con un'antennina. Poi magari c'è il primo Alice che è più vicino a te, avanti Alice. Tu di me qua la vita. Ah, Monte Bianchi non è più vicino a te. Ah, siamo lì, vai. Costa sempre studico come minimo, no? Però c'è due sono le cose. Io sento molto ma molto basso. Giorgio. Alessio è quasi a fianco a te. Zona quadrato, quindi dovrebbe essere più vicino a te. A me come mi ascolti? Appagato. Può provarsi che sia più favorevole per me, non lo so. Claudio, ci sei ancora? Matanna, va là. Giuseppe. Chi era? Non ho capito il nominativo, già. Giorgio da Monte Bianchino. Buonasera Giorgio, da questa parte, stazione Leoncino che ti super saluta, con la buonasera. Ciao Giorgio, mi senti? E si riprende. Ciao Giorgio, io non ti sento, ti sento veramente basso, la verità, e quindi non capisco quello che dici, non lo so di cosa dirti. Avanti Giuseppe. Ehi, ciao Giorgio, se mi senti, cambio. Volevo solo un piccolo controllo come ti sto arrivando lì da quella zona dove abiti tu. Ascolti, è piccolo piccolo, ascolta, ma arriva la radio, è uno, il segnale è uno qua, proprio pio. Non lo so se mi ascolta lui a me, come l'arrivo io mi fa la ponte già. Il Santiago 9 è qualcosa. Cappa, va bene, allora già sta pompando. Io vi saluto, vado a andare. Ci sentiamo domani, magari se ci siete, mi fa piacere fare quattro chiacchiere. Dai, ciao anche a Giorgio, se ti deve mettere a scultura, buonanotte a tutti. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime, noi vedremo quelli di Montutto. E ci sentiamo, buona dormita, a domani. Avanti Giuseppe. Ciao già, buonanotte, buon 144, è un buon trabacco per domani quando lo farai. Ci aggiorniamo, dai. Avanti, Giorgio, per i saluti per Gianni Doppio Ru. Non ho tiro fuori per niente. Ok, ti auguro la buonanotte Giorgio, quando lo farai, ci sentiamo. Alle prossime siamo sempre qua, sul canale 10, quando vuoi entrare, se non ci sono problemi, chiami e saremo qua. Avanti Antonello. Vabbè dai, noi ci aggiorniamo in seguito, domani mattina se è il caso ti fai vedere dopo le 10 al circolo e andiamo di là, dopo faccio quella questione là con chi andiamo là per quel pezzo lì che mi ha chiesto Ricco. Ho capito Giuseppe, adesso vediamo un pochettino là. Non so cosa dirti in questo momento, solamente andiamo a andare prima di tutto a fare la pista del dente, c'è più l'appuntamento più che altro, perché sono libero, io ti chiamo al limite alla baracchina, metti baracchina in macchina, così ti chiamo là. Vabbè non ci sono problemi, là già mi metto questo qua e ci sentiamo presto, dai, ok dai. O se no ti faccio un abbraccio verso le 10:30, 11. Se sei disponibile, vengo, ti prendo e andiamo là. E vabbè, come vuoi giù, da? Se non vuoi altro, non fate che ho fatto l'acceso e baracchino la mattina, verso le 8:30, 9. E allora ti metto il baracchino in macchina, sono 10, mi chiami e ti dico qualcosa, ok? E vabbè, non ci sono problemi, là. Ciao, buona buonanotte, saluto a Simona e ci sentiamo là. Anche io faccio pulizia e mi guardo un po' di televisione e poi mi addormento, dai. Ciao ciao. Ciao. ci sentiamo le prossime, stammi bene, mo con i tempo tutto, salve a tutti quelli che stanno ascoltando, a domani.